La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e bentrovati a un nuovo appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole di questa settimana è dedicato al mito della città di Roma e prende spunto dalla terza edizione del ciclo di incontri dal titolo Lezioni di storia a Roma dal 18 al 20 settembre. Ospite ai nostri microfoni Andrea Giardina, professore di storia romana dell'Istituto Italiano di Scienze Umane, presidente dell'Istituto Italiano per la Storia Antica e socio dell'Accademia dei Lincei. Roma Caput Mundi, capitale del mondo. Per secoli questa è l'immagine che Roma, soprattutto all'epoca dell'impero e poi come centro della cristianità, ha trasmesso al mondo intero. La parola Roma evoca ancora oggi conquista, dominio, sottomissione di popoli ridotti in schiavitù. Ma qui sorge un interrogativo, che ieri è stato al centro di un incontro-lezione tenuto da Andrea Giardina nell'ambito delle lezioni di storia in corso a Roma. Se Roma fosse stata soltanto questo, vale a dire solo una grande potenza militare che sottometteva allo stato di schiavitù i popoli che conquistava, la sua gloria sarebbe stata effimera. In realtà, ed è questa la suggestione che ci viene dall'incontro di ieri, Roma ha messo in luce nei secoli una grande capacità di integrare i vinti e di concedere diritti di cittadinanza. Una capitale cosmopolita, in poche parole ospitale, multirazziale, come si direbbe oggi, in grado di esaltare i talenti e integrare le più diverse culture. Per parlare oggi con voi del ruolo che Roma ha avuto nel corso dei secoli, abbiamo in linea proprio il professor Giardina, che ringraziamo. Grazie, professore. Buonasera, grazie a voi. Ecco, lei ieri ha tenuto in Campidoglio la sua interessante lezione su Roma Caput Mundi. Lei è docente di storia romana all'Istituto Italiano di Scienze Umane ed è autore, tra gli altri, di un libro molto interessante che si chiama Il mito di Roma, pubblicato dalla Terza. Professor Giardina, se è d'accordo, vorrei cominciare con lei questo viaggio ideale su Roma Caput Mundi, ascoltando insieme quanto Simone Weil scrisse negli anni 30 del secolo scorso a proposito del mito della romanità. L'analogia tra il sistema hitleriano e l'antica Roma è sorprendente, al punto da far credere che dopo 2000 anni solo Hitler ha saputo copiare correttamente i romani. I romani hanno conquistato il mondo con la serietà, la disciplina, l'organizzazione, la continuità delle idee e del metodo, con la convinzione di essere una razza superiore e nata per comandare, con l'impiego meditato, calcolato, metodico della più spietata crudeltà, della fredda perfidia, della propaganda più ipocrita, messa in atto simultaneamente o di volta in volta. Con una risolutezza incrollabile nel sacrificare sempre tutto al prestigio, senza essere mai sensibili né al pericolo, né alla pietà, né ad alcun rispetto umano. Con l'arte di alterare nel terrore l'anima stessa dei loro avversari o di addormentarli, con la speranza, prima di asservirli con le armi, infine con una manipolazione così abile della menzogna più grossolana da ingannare persino la posterità e da continuare a ingannarci. Professor Giardina, allora Simone Weil non pare affatto condividere la tesi che Roma sia stata una capitale aperta, ospitale e cosmopolita. Che ne dice? Ah, direi assolutamente, a sentire queste frasi, ma anche altre, insomma, assolutamente no. È un giudizio estremamente interessante, perché non viene da uno storico. Era una grande intellettuale, una figura, insomma, straordinaria della cultura, e non soltanto della cultura europea, insomma, del secolo scorso, però non era una storica. Oggi nessuno storico serio ripeterebbe queste affermazioni, anche se devo dire ogni tanto qualcuno le ripropone l'immagine dei romani come prototipo dei nazisti, soprattutto storici di lingua inglese ogni tanto cadono in questa tentazione. Ma quello che lo rende interessante è proprio il fatto che sia il giudizio di una intellettuale che non era una storica, non era una storica dell'antichità. E questo che lo rende interessante è perché corrisponde a un modo diffuso di vedere la romanità, che noi ritroviamo, queste pagine che abbiamo appena sentito non hanno avuto grande circolazione, ma ritroviamo lo stesso modo di vedere le cose soprattutto nel cinema. Nel cinema del dopoguerra, che è inondato dallo stereotipo nazifascista della romanità, Infatti, proprio su questo, non vi è dubbio che Mussolini, tanto per restare in casa nostra, fece del mito della romanità uno degli assi portanti della sua politica e della sua propaganda, dall'arte all'architettura allo spettacolo, come mostra tra l'altro il film Scipione l'africano del 37, che vinse la Coppa Mussolini come miglior film italiano alla quinta mostra d'arte cinematografica di Venezia. Professor Giardina, alla romanità fascista lei dedica un capitolo del suo libro. Fu solo propaganda? Certamente è stata una grande operazione di propaganda che ha funzionato soprattutto dopo dalla conquista dell'Etiopia in poi, e devo dire non soltanto in Italia, perché poi si fa presto a ritenerlo un fenomeno esclusivamente italiano, pittoresco, no? Gli italiani teatrali, no? Che si lasciano guidare dal capocomico, no? Questi sono giudizi che si sono così pronunciati dopo la guerra. In realtà è stata una grande operazione che ha avuto un successo internazionale, in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Unione Sovietica. Lo stesso Stalin paragonò Mussolini a una reincarnazione di un antico giurista romano. Questa operazione poi ha avuto grande successo grazie anche alle operazioni urbanistiche che Mussolini ha fatto nel centro di Roma. Quindi in quegli anni è stata un'operazione che ha portato molti frutti al regime. Poi naturalmente quando si indossa le armi dei legionari romani, le maschere dei legionari romani, e si perde una guerra in pochi mesi, il tutto si trasforma così in farsa, e allora è cominciata insomma la propaganda straniera sugli italiani romani di cartapesta, il duce romano di cartapesta e così via. Ma in quegli anni, per alcuni anni, la cosa ha funzionato. Certo. È un mito politico, come tutti i miti politici, anche i miti antichizzanti della Rivoluzione francese, sono delle invenzioni, naturalmente, ricreano il passato, ed è questo che li rende in fondo convincenti, non il fatto di essere uno specchio autentico di 2000 anni fa. Vorrei tornare un attimo, professore, con lei alla tesi principale della sua lezione di ieri e al suo libro. Roma nei secoli, lei sostiene, è stata tutt'altro che una semplice potenza dominatrice. Ecco, ci espliciti meglio questo concetto. Beh sì, dunque, se noi chiedessimo alla gente appunto che cosa è stata Roma, direbbero, credo, non soltanto nel nord Italia, no? Ma anche nel centro-sud, una potenza brutale, arrogante, razzista, crudele, insomma lo stereotipo del romano, che è poi quello cinematografico in sostanza, e perché Roma è stata conosciuta nel mondo attraverso i film soprattutto del dopoguerra, il romano ma essere marziale, un portato un po' a certa coazione a ripetere, un modello militaresco, brutale, sadico e così via. Totalmente nei grandi imperi tutto questo c'è sempre stato. Non si costruisce un grande impero senza brutalità, senza sangue e senza sfruttamento, e questo lo possiamo dare per acquisito. Però Roma non fu soltanto questo, c'è tutto un lato della romanità che è armonico a quello che ho appena detto, che è sconosciuto ai più e che è interessantissimo. Per esempio io stesso, facendo una ricerca anni fa, sono rimasto stupito nel constatare di quanto inesistente sia nella cultura e nella politica romana il problema della consanguinità. Se noi chiedessimo oggi per strada, insomma, ma i romani erano razzisti? Io credo che la gente risponderebbe di sì, perché questo corrisponde appunto a un modello che è penetrato, che si è diffuso. Se c'è un popolo che ha dato proprio una importanza minima, se non direi nulla, al problema del sangue e della stirpe, questo sono stati i romani. È un concetto assolutamente assente dalla politica romana. Così, e il paradosso è questo, che se noi pensiamo alla Grecia, pensiamo alla democrazia ad Atene. Se pensiamo a Roma, pensiamo automaticamente a Nerone, a Commodo, no? A queste affascinanti figure di despoti, crudeli e fantasiosi, diciamo così. Ma in realtà i greci, anche i democratici ateniesi, erano ossessionati dal concetto di sangue e di consanguinità, e i romani erano lontani da mille miglia da essere attaccati a un simile pregiudizio, anzi esaltavano il loro carattere di popolo bastardo, se così si può dire. Le vorrei chiedere, professore, in conclusione un'ultima cosa sul ruolo del papato, perché non si può parlare di Roma senza considerare, insomma, il ruolo fondamentale che ha la Chiesa in questa città secolare, che ha contribuito, diciamo, anche a affermare il suo mito. Sì. Lei nel libro ne parla. Beh, è molto semplice. Oggi, mentre oggi riproporre il mito di Roma città accogliente è possibile. Riproporre il mito di Roma caput mundi sarebbe ridicolo, no? Oggi, mentre invece la Chiesa è rimasta tuttora una delle poche istituzioni mondiali, romana e mondiale, in grado di fare politica su un piano universale. Questo è un dato di fatto, dobbiamo riconoscerlo.